Ola, 1, 2, 4, 5, 6, prova. Ola. Ola, 5, 6, 7, 8, 10, prova. Allo. Sacrilegio. Beh, uscì a porco. Saltone, stavo facendo delle prove. Prove varie, dai. Dimmi se va tutto bene o se sto uscendo male. No, sta uscendo bene, con l'effetto reverbero. Ma sta uscendo bene, cazzo, sacrilegio. Sembra in chiesa. C'era un po' di propagazione lunga, credo che siano americani, nemmeno inglesi, americani dovrebbero essere. Va bene, sto misurando i watt. Così da. Stavo regolando l'apparato per pilotare in basso quella roba lì. Devo mettere in MFM tutto al minimo, invece in banda laterale posso lasciare tutto a manetta. E devo stare attento a non spaccare l'ingresso della suffetta. Vabbè, noi ci puoi fare così a un certo punto, quindi arriva. Purtroppo è così. Sì, poi questo apparato è, come dire, banda laterale prima di dare i watt. Quando parli con il parlato non da watt. Devi usare un tono pilota per fare le letterature. Per capire quanti watt sta dando effettivi in uscita. Col parlato ne dà sempre la metà alla fine. Va bene. Augurami, va bene, ci mancherebbe. Caspita. Auguria. Forse c'è qualcuno vero che sta parlando con portatile. PMR, ma sento la cosa, ma non riesco a sentire di parlare, il discorso è quello. Evidentemente stiamo usando qualche portatile, senz'altro. Sono una antenna esterna, quindi figurati tu. C'è qualcuno al vero che mi sente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova? Non ci vuole nessuno, quindi a un certo punto mi sembra sempre di fatti loro, vabbè. Quindi a un certo punto pazienza. Sono paziente anch'io. Ma vista l'ora saranno a cena, non è? Sono le 8. Le 8? Sì, ci sono le 8. Qua ti volevo dire, porca miseria, passa la roba di mente ogni volta. Ma ti stavo cercando il talkback qua. Talkback per sentire come questo eco, però qua non c'è la voce. C'è l'impostazione ma non vedo la voce qua serigrafata e non me lo ricordo, da menu non c'è, ho dovuto mettere il baracchino prima, ma ha fischiato, vediamo se alza il volume un po', ola, eccolo là, prova, alfa, vaffanculo, mi fischia, dai, inutile. Sono sempre appena più bassa, poco fa, era perfetta. Ehi, conta che sono col mic normale. Saturazione non ce n'è, sei sicuro? Vedi un po'? Niente saturazione, perfetta a posto. Ehi, pilotato con 3,5, 3,5 portante in un'unità. Va bene. In FM al minimo, allora in AM ne dà, questo apparato messo al minimo, in AM 3,5, in FM ne dà 6, quindi in FM ne dà molti di più poi in uscita. Chiappa. Sta uscendo bene, mica sta uscendo male, ci mancherebbe. Aspetta con il microfono amplificato, secondo. Sì, perché non è amplificato quello, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, ecco, adesso ha criticato, visto è? Molto migliore, Antonio. Dimmi se si sente un Roger Bibi per quanto basso. Sì, sì, si sente, si è sentito. Allora, perché ho sentito che il PMR un Roger Bibi l'aveva, ma non era roba tua, l'aveva sentita. Sì, beh, questo sembra copiato dal PMR. Ma il volume è basso rispetto alla modulazione, vero? Esatto, sì, bravo. Sì, è un, diciamo, un, come dire, non un malfunzionamento del singolo esemplare, cioè tutti questi apparati di questa marca modello, il bip risulta basso, invece gli altri presidenti ce l'hanno di volume normale. Ok, poi c'è altro vedere qua. Sto cercando il talkback sulle impostazioni, almeno il volume del talkback, però non lo trovo. Un attimo di pazienza. D'accordo, ok, non c'è problema. No, non è da menu, deve essere i tasti frontali, c'è qualche combinazione di tasti. E qua vedo di tutto, vedo Vox, Mode, PA, Dual Watch, Scan, Memoria 1, Memoria 2, ANL, CAT, Eco, Emergenza, già ce n'è poco di serigrafia su questi tasti, per carità di Dio. Memorie, come memorizzare, mic gain, RF gain, per talkback, non mi sovviene. Vediamo se apriamo qua. Millo. Deve essere al minimo. Ecco come sta uscendo. Mi devo allontanare dall'apparato per sentire la modulazione. 1, 2, 3. Mamma mia, il talkback al minimo, ma è forte, ti dà fastidio. Infatti lo levo subito. Quindi devo premere il tasto F. Ecco qua, sparito. Capito. Allo, do you copy Italy? Aspetta che levo lo squelce automatico. Non si capisce una parola però, porca miseria. Come fai a contattarmi? Ah, Antonè. E cosa vuoi che dica io? Io ho comunque la parola, non so, però non capisco che cazzo sia, se sia la Rogera o se la Sassari, all'età, in PMR. Allora, ora, c'è qualcuno che parla da Sassari, ora. Aspetta un attimo, deve essere qualcuno che sta parlando davvero, aspetta, secondo cosa. Ah, intendi sopra nella banda alta, in PMR, eia. Candelo, vai là. Stava scrivendo. Beh, cos'hai detto? C'è qualcuno? Sì, c'è qualcuno. Quindi, dopo una c'è buona serata, per Alessio, Luigi, Silvia, eccetera, eccetera. Ecco, non c'è. Sì, va bene, devo solo provare il mic amplificato. Per vedere se tiene tutto al complesso, da oppure vedere se satura, ma non credo. No, io sei tranquillo, mica satura. Sto contattato Luca, come si chiama, Camera Raia, lì è casa sua, quindi figurati, arriva una foto scala qua, quindi penso che avessi sentito anche tu a un certo punto. Adesso mentre ci accompagnava i parenti, non so dove, e poi mi chiamava ed entrava, mi ha detto. Hai detto Luca Camera d'aria. Scala d'Alghero. Ah, d'Alghero stai dicendo, cioè fondo scala d'Alghero. Delinquenti, no, passa lì, cazzo, non sei che mi dato la camera d'aria, già la conosci, cazzo, mica lo vedo, no, veramente con questo nominativo non so chi sia. Camera d'aria, la prima volta che lo sento. Già lo conosci, non ti preoccupare. È un po' più giovane di te, ma già lo conosci. Luca, abita lì di Milano, fece la Gena, hai capito? Vabbè, io conoscevo i due Luca di Sassari, più conosciuti, Luca Maicomio e Luca Flipp, la camera d'aria, magari ci siamo sentiti, ma non me ne ricordo. Io sono ancora un po' incicciato, c'ho lo stomaco a capo in giosso, vedrai che sempre non c'è, no? Meglio così. E se preoccupare, già la conosci, però ti faccio vedere, guarda, a voglia se lo conosci, l'hai visto un piede di freddo, quindi una volta. Quindi figurati tu. Ehi, un attimo che cambio mic. Va bene. Però da una botta fa questo fischio all'inizio come premi. Senti come pompa il pipero. Pompa il pipero, pompa. E ti avvito. Questo, vedi come premi, questo fischio è terrificante però qua. Oh, lo allontano il mic, vediamo se lo allontano, se smette. Si sente lo stesso però, è perché il mic è amplificato. Quindi amplificato con l'eco, rende abbastanza o lo confonde troppo il parlato? No, rende bene, non ti preoccupare, fregati. Che bello, ahi. Che non posso mettere il monitor perché fischia. Vabbè, adesso comincio a levare bip, ecco, e tutte le menate annesse e connesse. Qua sono 60 watt. Ah, che vabbè, c'è un video. Aspetta un secondo. Ma e stasera è entrato qualcuno, no? Dove? 27. Ehi, yeah. La verità no, non è stato nessuno. Mamma mia che ciocco brutto, non si può eliminare, tanto va che è a zero. Vabbè. Ci dai l'apparecchio acceso in PMR, sì o no? Marco, ce l'hai, sì. Sei coso, cazzo, in PMR, cosa cazzo, vai in banda laterale, ma non si usa più quella frequenza da usare. No, stavo controllando i watt in banda laterale, però devo togliere lo strumento. Ormai ho controllato. Cosa mi ha detto il PMR? Io non c'ho niente qua, c'ho ricevitore e antennino interno. E non sento nemmeno Sassari. Figurati tu, ma cosa Sassari senti? Guarda, forse, vabbè, i radiatori, quelli forti li sento. Tu non mi ricordo se arrivi, cioè c'è volte arriva e non arrivi, mica. Va bene. Non credo che valga la pena di piazzare più roba, dai. E poi i cibi si stanno riducendo all'osso, veramente. Mamma mia, che pochi siamo rimasti. E metti che l'antenna sopra, ma se la scena senti, boh. Poi ti porta a scegliere il cavetto giù, boh. Ma pensa che ci avrei l'antenna già pronta. Quella famosa... Che modello era? Diamond BC202, bella, pronta, stazionario 1 e 2, praticamente non ce n'è. Il problema è il cavo, quanto ne è? 50 metri di cavo, a quelle frequenze danno una perdita eccezionale. Cioè, a meno che non metta roba tipo Shellflex, quella roba costosissima, ti costa più il cavo che non l'apparato e tutta la stazione completa, capito? Mamma mia, ma sei una scena, sei qua. No, io non so cosa dirti, sei una scena, sei qua, la verità. Ma ti fai cazzo che io aspetto 100 euro, cazzo, mi cavo. Quando io sto usando, cazzo, 12:58, a un certo punto, cazzo, e va bene lo stesso, boh. Io non ti capisco, la verità. Sì Antonello, no, ma io lo so che tu mi dici sempre, metti il Regio 58, sì ma tu ne avrai, quanti metri hai? 10-12 metri, e qua sono 50 metri, non so se mi spiego, 50 metri in UHF con la Regio 58, vai a controllare con le tabelle là, la perdita che ti dà, è come essere senza antenna. Piazza molto cavo, quello più fine, cosa ne so io? Piazzalo però a un certo punto, va bene, non puoi pensare cazzo un cavo grosso, cosa te ne frega a te, mica sei un animatore, scusa cosa devi installare cazzo in casa, un'antenna cazzo da 2400 euro cazzo, e cosa ne fai, non te ne fai nulla se non c'è l'apparecchio, cazzo in culo l'antenna in pratica. Io c'ho tutto, c'ho anche l'apparecchio. Vabbè, ci hai già detto, guarda. C'è anche l'apparecchio. A che cosa? Ascoltare, cazzo. I becchini che ti ascolti. Allora senti invece io. Cazzo, vabbè, con pochi soldi. Non so di che... E avanti 1 3 1 3 4 5 6, certo che ti ascolto, che sei? Ciao Carlo, buonasera, Antonello qua da Sassari in PMR, buonasera, ben ascoltato. Sta arrivando benissimo, io sono qui a Carbonazzi, tu dove sei? E dov'è? Cosa ne so io? E che punto è quello lì? Su commento, Olmedo, cazzo! Vivi forte da Meloni! Scala qua. Ma certo che funziona. Adesso c'è proprio. Ho scoperto la scala, fico dentro. No, la verità no, se me lo dici mi fa piacere. Sono ricoglionito, dimmelo tu. Allora dimmi che sei, vaffanculo, perché mi dici così, dimmi che sei. Carlo chi? Carlo... Carlo il fratello di... ho capito, di quello che gli avete portato in GMR. Ah, Carlo la Pavera, ho capito. Ho capito Carlo. Vabbè, ok Carlo. Non pensavo Carlo, siccome è andato poco fa, un amico che gli ho pensato un portato di PMR, hai capito? Pensavo fosse stato suo fratello a un certo punto. Vabbè, meglio così, sono contento, ti ascolto benissimo, non c'è problema. Vabbè, tu sei in alto Antonè, ti viene bene, come io per la scala di ciocca, in macchina, magari mi porto anche l'antenna collineare Diamond veicolare, un bijou. Cosa hai detto? Ho detto bello che tu sei in auto, ma quello è davvero d'Almedo o è uno scherzo? No, è davvero d'Almedo. Prova a chiamarlo, non c'è problema. Chiama a Valli, se ti diceva d'Almedo. Sì, dove sei tu? Oh, ho capito chi è la verità, Ok, va bene, lo sai che io non è che... Quindi mando un saluto da parte di cosa? Di un amico che siamo tornati il 27. Marco Condor. Amico è Marco Condor. Ok, d'accordo, non c'è problema. Sentito Marco? Ia. Sì, ci ho capito. Ho detto, come io vado a Scala di Ciocca, lì, con la veicolare collineare, prendo tutto, grazie. Infatti, aspetta che faccio parlare con lui, no? Facciamo una specie di foto telefonico. Allora, parla Marco? No, Antonio, niente incrocio di bande. Aspetta, ti faccio saltare la mano. Marco, saluta amico. Gabba. Allora, un saluto all'amico in banda PMR. Vabbè Antonio, già abbiamo capito che funziona. Ascolta, io stacco perché mi ero dimenticato di mettere la lavatrice. Ammetti che mi venga la febbre domani e sono fuori combattimento. Meglio che la metta stanotte. Porca miseria, è già tardi. Va bene, ma non c'è problema. Ok, non c'è problema. Così bisogna fare i punti, a certo punto. Se io aggancio il PMR al 140 esce un bel ponte, se non lo sai, news esce a questo punto. Sì, vabbè, ma tanto io lo sento tutto gracchiante, frusciato tramite baracchino, non si capisce nemmeno quello che dice. Ok, dai, io stacco un attimino, vedo se riesco a rientrare dopo. Se no ritieniti super salutato, ok? Va bene Marco, non c'è problema. Siamo stati. Arriva a Fondoscala qua, figurati ma. 2 minuti, faccio rispondere a lui. Purtroppo quando tu lo mandi al baracchino è completamente distorto. Non, è tutto un fruscio, un macellonico. Va bene, io ho tolto tutto, bip, ed ecco, lo lascio così. Va bene, ciao Antonio, a dopo, se no buonanotte e ci sentiamo, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo domani, no, ok. Saluto anche dall'amico, non c'è nessun problema. Marco, capito, non c'è nessun problema. Quando vuoi fare il ponte non c'è problema. Ci sentiamo tutti, lo sai. Anche se sono di Alghero, non trovate che ti faccio la ponte io.